Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Per l'automobile siamo in pieno dramma. L'automobile, cioè il motore che ci porta in giro, il motore che ha spinto la nostra civilizzazione economica nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del Novecento, quando l'automobile è diventato un mezzo di massa. Roberto Calderoli è ministro per la semplificazione istituzionale e giustamente si è portato avanti col lavoro, ha cominciato a semplificare anche il problema degli aiuti eventuali del governo alla Fiat. Ha detto: se arrivano gli aiuti alla Fiat ci sarà la rivolta popolare. E su tutti i giornali di oggi è stato riportato da molti giornali radio e da molte rassegne stampa del mattino. Roberto Calderoli non parla a caso e sostiene un punto di vista che in certi ambienti è molto popolare. Un punto di vista che dice: abbiamo molte volte lo Stato italiano, il governo, incentivato l'acquisto di automobili fiscalmente oppure trasferito direttamente con aiuti concreti alla Fiat risorse sul sistema automobili di produzione dell'automobile e le cose non si sono mai risolte. L'unica cosa che è successa, dicono gli avversari degli aiuti all'automobile, è stata che i profitti sono rimasti privati e le perdite sono diventate pubbliche. È una semplificazione, appunto, molto, molto netta, molto chiara, che ha un certo successo e che oggi Calderoli rilancia. Ma mercoledì si metteranno tutti intorno a un tavolo, ci saranno le lobby delle case automobilistiche italiane ed europee, ci saranno i ministri che sono divisi, c'è il ministro Scajola, Claudio Scajola, che è abbastanza favorevole a fare qualcosa, anche perché il suo ruolo è direttamente a contatto col problema dello sviluppo produttivo e insomma il sistema dell'automobile rappresenta il 2% del prodotto interno lordo, quindi insomma è una bella quota della nostra ricchezza nazionale. E invece il ministro del rigore, il ministro Tremonti, ha qualche perplessità in più, ce l'ha anche Maurizio Sacconi, il ministro del welfare, il ministro del lavoro. Insomma, la situazione non è semplice, non è facile. E poi appunto c'è questa minaccia semplificata, diciamo, di Roberto Calderoli. Se arrivano gli aiuti alla Fiat e alla sola Fiat e non al sistema in generale delle imprese, delle famiglie e dunque anche alla Fiat, allora ci sarà la rivolta popolare. Ne dobbiamo parlare, secondo me, 800 24 00 24, questo è il numero verde, ponendoci una domanda, quindi io pongo già subito e trasferisco ai nostri ascoltatori, una domanda non proprio elefantiaca, una domanda semplice, una domanda abbastanza micro, e la domanda è questa: su che base si può giudicare degli aiuti alla Fiat o degli aiuti all'industria dell'auto? C'è una base morale? Un criterio di giustizia distributiva? O c'è una base di utilità? Di utilità per tutti, naturalmente, di utilità per la società italiana, di utilità per la nostra economia e più in generale per le economie globalizzate nelle quali siamo inseriti. Il criterio è la moralità o l'utile? Beh, io francamente, così tanto per dire la mia opinione, che poi conta quel che conta, conta per uno, come si dice, penso che il criterio importante, il criterio giusto, il criterio che deve vincere alla fine è il criterio dell'utile. Però anche lì, come vedrete nel corso anche della nostra discussione, alla quale parteciperete perché la trasmissione è un parliamo insieme, parliamo con l'elefante, con i suoi ospiti, interlocutori, come vedrete, anche sulla questione dell'utilità c'è una forte divisione tra chi dice sì è utile e chi dice no, è inutile, anzi è perfino dannoso finanziare una grande industria come quella dell'automobile, oggi in grave crisi per un 2009 che si annuncia, come tutti dicono, tremendo. Bene, siamo in linea con Mario De Aglio, che è un autorevole economista dell'Università di Torino, è un professore ed è un commentatore della Stampa. La Stampa, lo ricordo, è il giornale di famiglia degli Agnelli, però è un giornale autonomo, indipendente, sul quale si dicono tante cose diverse. Ora, qui c'è un problema, professor De Aglio, che intanto saluto. Buongiorno. Buongiorno. Qui c'è un problema. Il suo articolo più recente sulla questione degli aiuti di Stato alla Fiat pone una grande questione. Lei dice: l'automobile è diventata antipatica, inquina, occupa le strade in modo prorompente e spesso prepotente, rovina la bellezza e la vita delle città, è diventata antipatica, è considerata un'espressione di un modo vecchio e ormai senza più alcun senso di vivere, di muoversi. Tutto le è preferito, l'alta velocità ferroviaria, i trasporti collettivi, andare a piedi, in bicicletta. Insomma, l'automobile non ha più il prestigio di una volta, quando era proprio lo strumento individualistico di... Bene, professor De Aglio, ma lei dice bisogna finanziare un ripensamento strutturale dell'automobile. È un po' quello che dicevano i sindacalisti alla fine degli anni 60 a Torino, quando c'erano le grandi lotte dell'autunno caldo. Un nuovo modo di fare l'automobile e un nuovo ruolo dell'automobile nella società. Ma sono discorsi concreti questi? Ma io penso proprio di sì. La concretezza deriva proprio da fattori molto palpabili come l'inquinamento, l'intasamento delle strade, la diseconomia che viene dalle troppe automobili in circolazione. Quindi bisogna immaginare qualche cosa di diverso. La diversità può essere di tipo tecnico. Cominciamo a vedere questi motori doppi che vanno in parte a benzina o diesel e in parte a elettricità, poi avremo i motori totalmente elettrici che potrebbero essere una buona soluzione del problema. Ecco, professore, oggi si parla solo di agevolazioni, diciamo ecoagevolazioni fiscali, ti danno più soldi se tu prendi, se sostituisci una macchina più inquinante con una meno inquinante, però su standard di costruzione ancora abbastanza tradizionali. Si può fare un passo avanti, secondo lei? Si potrebbe lanciare mercoledì in questo tavolo con tutte le parti sociali riunite intorno al governo che deve erogare questi aiuti, l'idea dell'ibrido, finanziare l'ibrido, cioè appunto il doppio motore elettrico e diesel che... Ma io direi che questa è l'unica strada veramente producente. Se noi finanziassimo semplicemente la Fiat così per ripianare delle perdite, per salvare dei posti di lavoro senza pensare al futuro, avremmo una boccata d'ossigeno per un anno o due e poi il problema si ripresenterebbe aggravato ancora. Penso che in questo i programmi del presidente americano siano da guardare con interesse, cioè lo spostare tutta la scommessa industriale di una società su parametri di tipo nuovo e quindi sostanzialmente immaginarsi dei nuovi gruppi industriali o la trasformazione dei vecchi in questo senso. Sì, tutti si aspettano molto da Obama, da Barack Obama, dal nuovo presidente americano, sia per il programma di finanziamento delle infrastrutture che risolverebbero il problema di una di un effetto di traino anche per i camion e per le macchine movimento terra, che sono grande parte poi del business, diciamo, oggi della Fiat, che non è solo Fiat Auto, ma è anche questa roba qua, e sia per la cosa che diceva adesso il professor De Aglio, cioè per l'idea di un rilancio strutturale dell'industria ecologica a partire dall'energia. Metterei in contatto i nostri ospiti e me stesso e l'elefante stesso con il primo ascoltatore Giovanni da Pavia. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Qual è la sua idea? Grazie. Ma le lancio due provocazioni. La prima, mi chiedo perché bisogna per certi settori, pur capendo qual è l'importanza evidentemente che hanno, lei diceva la percentuale del PIL, perché per certi settori la ricerca e lo sviluppo deve essere cofinanziata dallo Stato, mentre invece per altri devono fare le aziende da sole. E in questo senso le lancio la seconda provocazione. Io non sono un tecnico di queste cose, però quindi faccio una semplificazione e le chiedo scusa per questo. Però tutti quanti questi aiuti si configurano di fatto come degli aiuti a fondo perduto che in qualche modo lo Stato dà alle aziende. Certo. Allora le chiedo, ma perché non pensare a un meccanismo per cui non è più a fondo perduto, ma questi aiuti vengono dati in cambio di equity, di azioni? Quindi facciamo l'esempio della Fiat, oggi l'azione della Fiat è ai minimi storici. Sì, è chiarissimo, è un po' quello che è successo in America, no? Dove all'inizio hanno fatto un piano di salvataggio che prevedeva gli aiuti, poi hanno cominciato a dire no, gli aiuti ma in cambio di qualcosa, e hanno cominciato a incamerare dalle grandi istituzioni finanziarie, Giovanni, le azioni, no? Esatto, e questo qui permetterebbe, tanto comunque se sono a fondo perduto e poi l'azienda va male, i soldi sono persi. Se invece l'azienda si riprende, lo Stato a quel punto, che non entra nella gestione ovviamente operativa dell'azienda, lo Stato ha delle nuove finanze da investire negli aiuti alle, però un principio pericoloso. Ne parliamo con Alberto Mingardi, economista, direttore dell'Istituto Bruno Leoni e diciamo teorico del liberismo in Italia, uno dei pochi animali sopravvissuti della stagione dell'ozone neoliberista. Alberto Mingardi, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invocazione al WWF. Che vogliamo fare? Dunque, i soldi bisogna darli alla Fiat, all'industria dell'auto in generale, devono essere soldi diretti, soldi contro azioni o non bisogna darglieli per niente? Qual è il suo parere? Abbiamo sentito Giovanni e sentiamo il suo parere. Il mio parere ovviamente inclinerebbe in quest'ultima direzione. Sulla base di un argomento poi che è anche pragmatico, è evidente che il settore automobilistico ha bisogno di una ristrutturazione importante, ma l'arrivo di fondi pubblici difficilmente può stimolare un cambiamento di questo tipo, anzi in qualche maniera l'arrivo di un sostegno esterno contribuisce a consolidare la posizione e le strategie di chi ha condotto quelle imprese nella situazione in cui si trovano ora. Un caso abbastanza evidente è quello americano. Alla fine in America si parla, perlomeno per oggi, di aiuti che diano ossigeno, come diceva giustamente Giovanni da Pavia, per i prossimi mesi. Cambiare un modello produttivo andando a incidere su realtà così consolidate, così legate a un modello di business, quali sono le Big Three di Detroit, è molto difficile. In America ci sono altri produttori, per esempio molti produttori giapponesi, che producono auto diverse, molto meno inquinanti, più piccole, a norma rispetto alle prescrizioni più restrittive in termini di emissioni, che sono in America quelle della California, e concentrate con i loro stabilimenti in altri stati. Ora è evidente che se c'è un cambiamento di domanda da parte del pubblico, quei produttori sono più attrezzati a venirle incontro che le tre grandi. Certo, questo non c'è dubbio. Una domanda ancora di un semplificatore da Napoli, non dal nord questa volta, riguarda appunto Calderoli. Emanuele da Napoli, pronto? Pronto? Emanuele, sì. Buongiorno. Senta, volevo dire all'onorevole Calderoli, no? Loro si sono fatti una campagna elettorale proprio sull'Alitalia, su tutte queste cose. Come ne... Abbiamo perso noi italiani più di 3 miliardi di euro, va bene? Che noi italiani mettiamo noi dalla tasca. Quindi automaticamente non ho capito il perché poi l'aiuto alla Fiat non si può dare dove l'Alitalia c'ha un 10.000 dipendenti, 15.000, non mi ricordo quanti. La Fiat con tutti gli indotti c'ha più di 100.000 persone, quindi sono 100.000 un'ottantina di migliaia di dipendenti diretti più 300-400.000 dipendenti quindi, del settore. Automaticamente, specialmente ho capito, lei dice Fiat contro Alitalia, chiarissimo, ecco, sentiamo Nicola Porro, vice direttore del giornale, è un argomento un po' più politico, un po' più polemico. Sì, ma è un argomento perfettamente condivisibile, se il ministro dell'agricoltura italiano, Giuliano, prende 200 milioni dei contribuenti italiani per comprare forme di parmigiano, no? Sì. È molto difficile non scatenare una corsa all'aiuto pubblico, tant'è che il giorno dopo il parmigiano i mozzarellifici campani hanno chiesto soldi anche loro perché si trovavano in crisi. Non sono battute, sono realtà, cioè quando si apre il vaso di Pandora degli aiuti pubblici ovviamente si scatena una rincorsa, perché chiunque pensa in un momento di crisi, anche correttamente dal suo punto di vista, di essere particolarmente strategico per il paese. Una piccola notazione sulla domanda iniziale che tu hai fatto, che è fondamentale, cioè che non è una questione morale quella che ci dobbiamo porre oggi, ma una questione di utilità. La Fiat quest'anno si trova straordinariamente ben posizionata rispetto a tanti altri produttori, quindi una prima obiezione viene a cadere, cioè non si stanno socializzando i profitti, le perdite quest'anno semmai, ma la Fiat per tempo sta cercando di trovare una soluzione. Seconda considerazione. Allora dobbiamo dare un po' di sostanza a questo giudizio, Porro, perché la Fiat per tempo? La percezione è quella di una crisi, appunto il precedente ascoltatore ha detto è come l'Alitalia, invece le cose non stanno proprio così. No, la Fiat intanto, siccome l'economia è una cosa resa complicata dagli economisti ma semplice nei numeri, la Fiat quest'anno ha fatto ancora soldi, 1 miliardo 700 milioni, ha ancora venduto macchine, ha delle macchine e dei modelli che sono nel momento ancora di punta, quindi non sono vecchie, non sono vetusti perché ha investito, parlo Fiat, non gli altri marchi, si ha deciso di non distribuire un dividendo l'anno prossimo per il semplice motivo che ha la consapevolezza del mercato durissimo che si troverà l'anno prossimo. Non solo, il signor Marchionne ha fatto questo famoso accordo con la Chrysler, insomma lo ha impostato, perché l'accordo ancora non c'è vero e proprio. Sì, ma questo è riuscito a comprarsi un'azienda fallita, perché tale Chrysler, a parte le balle che uno si può raccontare, pagandola in tecnologia. Fallita, ma che ha avuto gli aiuti di Stato. Ha avuto già. In America, nella patria del liberismo. Bravissimo. Scusi un attimo, Mingardi, come la mettiamo qui? Che l'America, che è l'Eldorado dei liberisti di tutto il mondo, ci ha preceduto alla grande, ha tagliato il traguardo per prima negli aiuti di Stato specifici alle singole aziende e tutti motivati socialmente, cioè aiutiamo il management, aiutiamo l'azienda, sia pure mettendo condizioni molto strette, diciamo, però mettiamo i soldi dei contribuenti nelle industrie, perché altrimenti qui fallisce tutto e abbiamo milioni di disoccupati per le strade. Come la mettiamo? La storia degli aiuti di Stato all'auto in America è una storia antica. Lo so. Ci riporta a Carter, al primo Bush, eccetera. Il famoso Lee Iacocca, no? Tutti ricordano la biografia di Iacocca, dice, questo grandissimo manager che ha salvato la Chrysler. Era stato aiutato e poi invece nel corso del tempo la Chrysler non ce l'ha fatta. Esattamente, aiuto di Stato chiama aiuto di Stato, per così dire. C'è il precedente. Si aiutano persone, imprese e management che forse invece dovrebbero essere lasciati alla disciplina di mercato, e quello che succede è che dopo c'è bisogno di aiutarne ancora. Ecco, ma ha ancora senso questa discussione, Porro, e poi volevo sentire di nuovo De Aglio, sugli aiuti di... Da un punto di vista pratico, se l'Italia non aiutasse le auto si troverebbe svantaggiata rispetto non solo agli Stati Uniti, a tutto il resto dell'Europa che purtroppo le sta aiutando. Questa è una considerazione pratica, non morale. Secondo aspetto, assolutamente ragione secondo me la posizione di Mingardi, dare l'ossigeno a un malato vuol dire non rendersi mai conto di quanto sia malato. Sostanzialmente qua nel mondo si producono sulla carta più auto di quelle che si riescono a vendere. Prima o poi ci si dovrà rendere conto che la capacità produttiva mondiale è in eccesso. La capacità è in eccesso, su questo mi pare che non ci siano assolutamente dubbi, tant'è vero che appunto i piazzali diventano ingombri di automobili, diciamo devono metterle nelle scorte le automobili e non possono reinserirle, sono in attesa che venga ripristinata la linea col professor De Aglio, che al momento è... cascata. Un altro, scusami Giuliano, sì. Prego. Se insisto, aiutare Fiat paradossalmente vuol dire aiutare la Fiat in Polonia, la Fiat negli altri stabilimenti produttivi, dei 2,5 milioni di macchine circa che Fiat fa, e non solo macchine, come dicevi giustamente tu, sì. In Italia ne fa 600,000, bisogna sempre ricordarlo questo aspetto, perché quando si parla dell'aiuto alla Fiat si parla di un aiuto globale alla Fiat. Certo. Allora, professor De Aglio, lei ha fatto due esempi di nuovi standard, nuovi criteri da definire per incentivare la produzione dell'automobile. Lei dice, visto che ci sono i divieti che riguardano la velocità, perché produrre automobili che vanno a quelle velocità folli? Bisognerebbe semplicemente incentivare la produzione di automobili che vanno piano, e questo è già qualcosa dal punto di vista dell'inquinamento, dal punto di vista del consumo energetico, dal punto di vista dell'eco qualità. E lei poi ha detto anche le misure. Le auto ingombrano, costruiamole di misura più piccola e indirizziamo gli aiuti di Stato in questa direzione. Conferma? Sì, conferma, e vorrei dire ancora un paio di piccole cose. Sì. La prima è che mi pare, dal dibattito che ho sentito, che né a livello di governo né a livello di ascoltatori ci sia la percezione delle proporzioni. Il sistema auto è una delle pietre miliari dell'industria italiana. Se si dovesse togliere l'auto, come qualcuno dice con grande disinvoltura, va giù tutto. In realtà i posti di lavoro interessati, calcolando l'indotto a monte, ma anche quello che c'è a valle, cioè i finanziamenti, i concessionari, eccetera, eccetera, sì, si aggira sul milione di lavoratori. Quindi stiamo parlando di un pezzo di noi, e questo non può andare giù tanto facilmente. Seconda cosa, quando si parla di aiuti, è stato molto semplificato anche a livello governativo. Diamo i soldi alla Fiat. Non è mica detto che sia così. I soldi si possono dare a chi compra le auto e probabilmente quello che succederà a livello europeo sarà un coordinamento in questo senso. Cioè incentivi alla rottamazione, come si diceva una volta, che possono però essere indirizzati su determinati tipi di auto che abbiano caratteristiche però, ecologiche. Però per adesso, professore, le cose sono andate diversamente. Oggi, per esempio, diciamo, se uno vuole acquistare una nuova auto meno inquinante in Germania ha un bonus di 2.500 euro, in Italia solo di 700, è l'eredità, diciamo, della vecchia rottamazione. Sulla quale si può funzionare. Ma l'idea che sta prendendo piede nell'opinione pubblica è che c'è un pacco di soldi che viene regalato alla Fiat. Non è questo quello che si deve fare, né quello che credo si voglia fare. Se anche si fanno dei finanziamenti per tecnologie nuove, sono dei contratti di ricerca, come quelli che i liberalissimi Stati Uniti hanno sempre fatto con la loro industria avanzata. Insomma, il governo mette una parte per studiare delle soluzioni nuove. Quindi tutto il rumore mediatico che si fa in questo senso tende a far perdere di vista il certo, tipo non dobbiamo far circolare delle leggende nere, in questo lei ha perfettamente ragione. Un altro aspetto importante, si dice negli altri paesi la produzione è concentrata con grandi risparmi di scala. In Italia noi abbiamo molti stabilimenti e questo aumenta i costi. Alcuni di questi stabilimenti contribuiscono a una scarsa produttività del settore. Si citano, come al solito, Termini Imerese, che era stato già messo, come dire, in discussione da Giuseppe Morchio, il precedente amministratore delegato della Fiat, e Pomigliano d'Arco, due stabilimenti del sud, settore vitale, settore strategico, settore importante, dove elementi di protezione, di tutela sociale sono ovviamente cari Ai poteri pubblici. Secondo lei, professor De Aglio, si può superare la crisi del 2009, cioè questa crisi un po' abissale che si è aperta di fronte ai produttori di automobili, come ha riconosciuto, come ha detto, come ha previsto l'amministratore delegato della Fiat Marchionne, senza chiudere gli stabilimenti di Pomigliano e di Termini Imerese? Io credo che la risposta dipenda dalla gravità effettiva della crisi. Credo che in punta alla lista delle criticità ci sia Termini Imerese per ovvi motivi, cioè sostanzialmente c'è una lunghissima catena di trasporto che tra l'altro si fa via terra perché si scelse anche politicamente di fare così e non via mare, che costerebbe meno, ma anche lì sono decine di migliaia di posti di lavoro soltanto su questa linea di trasporto. Ma se questo è vero, non è stato imprudente tenere aperto quello stabilimento, cedere quando ci fu la grande protesta sociale di 4 anni fa? Credo che da un punto di vista esclusivamente aziendale è stato imprudente. Bene. Peraltro, quando si fa i manager a quei livelli, non è facile, le esperienze decennali anche americane di oggi insegnano che se si tiene conto soltanto del profitto, certo, bisogna molto male. I compromessi sociali sono addirittura decisivi in certi momenti. Un'altra domanda e poi la mollo, professor De Aglio, ed è questa: la settimana corta, l'Inghilterra lancia questa formula, 3 giorni a lavorare, 4 giorni a casa. Settimana cortissima, 80% del salario percepito dai lavoratori. Come risultato, un salario resta, non c'è un disoccupato in più, tendiamo a pagare ovviamente le pensioni, a dare un minimo di tutela sociale, molto meglio questa soluzione che azzoppa la produttività del sistema economico ma non ammazza socialmente il sistema industriale. È realistico pensare a una settimana corta di questo tipo nel settore dell'auto in Italia? Credo che la risposta si possa dare soltanto stabilimento per stabilimento, reparto per reparto. In alcuni stabilimenti e reparti sicuramente sì, in altri è proprio una questione tecnica di numero di persone, di impianti che pensiamo nel caso dell'auto, ma la siderurgia, in cui quando una cosa è stata scaldata bisogna che continui a lavorare per un certo periodo. C'è anche un'altra alternativa che non è stata tirata fuori, cioè la cassa integrazione a turno, quindi tutti lavorano, l'orario è quello pieno, i giorni sono quelli pieni, ma si fa un mese a testa o qualcosa del genere. Sono dei sistemi subottimali, cioè non si va bene come prima, ma nelle situazioni attuali, se la domanda non mantiene certi livelli minimi, è forse l'unica cosa che si può fare. Bene, 800 24 00 24, dobbiamo dare quattrini al sistema di produzione dell'auto, alle fabbriche che producono auto, alle aziende che producono auto, dobbiamo dare dei quattrini anche alla Fiat. Ne stiamo parlando e sollecitiamo la vostra opinione. Paolo da Milano, una obiezione che mi sembra un po' leghista fatta a Calderoli. Paolo. Sì, buongiorno, mi sente? Buongiorno. Sì. Sì. No, ok, più che un'obiezione a Calderoli, anzi era un consiglio a Calderoli di stare un attimino più attento nel dire gli aiuti alla Fiat, ci sarà una rivoluzione di piazza, ma non credo, perché Calderoli forse non sa che intorno al prodotto Fiat ci lavorano tante persone, tante aziende del nord. E cioè, non cosa crediamo, che la Fiat sia solo un lavoro per il sud? No, anzi. Poi certo, nello stesso tempo dico, va bene, gli aiuti della Fiat ci vogliono perché gli altri stati lo danno, siamo obbligati a dare questi aiuti, non è che una scelta, perché non possiamo permetterci di privarci della Fiat, però nello stesso tempo dobbiamo dire alla Fiat di non investire poi questi soldi in Polonia o in Brasile, ma di sicuramente di investirli in Italia, magari al sud. Ecco, questo c'è sì. Un'analoga, sì, grazie Paolo da Milano. Roberto da Bergamo, c'è un'analoga polemica sulla questione appunto della delocalizzazione. Prego Roberto. Buongiorno. Volevo dire, come settimana scorsa Sarkozy della Francia ha detto sì, io vi do gli aiuti di Stato a Citroën e Peugeot, però rimanete con la produzione in Italia, in Francia. Uguale dovrebbe fare lo Stato italiano, visto che ormai sti fondi bisogna dargli per forza, dovrebbe dargli, ma la produzione portarla in Italia, tutta la produzione, così ecco, meno cassa integrazione, più gente lavora, paga le tasse, spende, recupera i soldi con l'IVA, un po' di soldi lo Stato lo recupererebbe anche con l'IVA, con la gente che lavora. Ecco, il problema nasce dal fatto, grazie, che 630.000 sono le auto prodotte in Italia, solo in Polonia in un singolo stabilimento la Fiat ne produce 460.000. Gli effetti di delocalizzazione sono in realtà molto forti. Porro, allora, aiuti di Stato all'auto, aiuti di Stato indiretti o diretti anche alla Fiat per ragioni di utilità, conseguenza però, torniamo a, come dire, alla pianificazione industriale, si recede dalla globalizzazione, dai mercati unici, competitivi all'interno dei quali c'è concorrenza, bisogna rilocalizzare, rinazionalizzare l'industria dell'automobile, questa è la cosa che dicono i sindacati, se li aiutati devono produrre posti di lavoro in Italia. Tutto questo è un ulteriore colpo, mi sembra, all'idea della libertà economica. Beh, certo, è un ulteriore colpo all'idea della libertà economica ed è uno dei motivi fondamentali per cui la droga degli aiuti è tremenda, bisogna rendersene conto e soprattutto quello che si diceva prima, cioè dopo la Fiat chi altro dobbiamo aiutare? Quale altra grande industria? Nei giorni scorsi il professore 24 ore, due giorni fa, ci ha fatto capire cosa era successo nel settore siderurgico e nel tessile. Voglio dire, bisogna stare molto attenti a considerare, mi spiace che il professor Deaglio in questo momento non ci sia in collegamento, a considerare sempre come strategico un solo settore. Purtroppo chiunque sta all'interno di un settore, di un network, di una rete di imprese, considera la sua come l'azienda, il settore più innovativo e più importante per il paese. Lei pensi il Made in Italy. Quindi io sono molto preoccupato esattamente per questo aspetto, non tanto per l'entità degli aiuti, perché ha ragione il suo ascoltatore. Purtroppo forse saremo costretti a doverlo fare per non mettere la Fiat in una posizione svantaggiata nei confronti dei suoi partner europei e mondiali. Però il giorno dopo nasce il vero problema, e cioè capire come si possa considerare questo mondo diviso tra nazioni, perché così sarà, perché oggi siamo sulla fabbrica fatta nella stessa nazione, ma già negli Stati Uniti si inizia a parlare di Made in USA e probabilmente arriverà anche da noi questa bruttissima sensazione del Made in Italy come unica condizione per levarsi dall'economia. Io, una forma indiretta, diciamo, di protezionismo, sì, insomma, gli aiuti come i dazi. Sì, ed è tremendo, nel 29 29, probabilmente è sbagliato paragonare questo momento a quello del 29, io non sono tra quelli che pensa che siano minimamente paragonabili le cose, ma se una cosa ci ha insegnato è che il 29 è diventato una catastrofe quando gli stati sono diventati protezionisti. Ecco, forse questa è la medicina peggiore che potremmo avere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. A quel punto veramente questa potrebbe essere una gravissima crisi. Facciamo delle ipotesi però sulla torta che va distribuita degli aiuti. Pare che sia piccola quella italiana e che debba veramente raddoppiare, triplicare, quadruplicare. Gli aiuti, diciamo, in regime Prodi, il vecchio regime che ereditiamo, quello scaduto il 31 dicembre del 2008, sono circa 250 milioni di euro. Pare che si debba arrivare al miliardo, quindi 4 volte tanto. Il contributo va alzato di parecchio, sempre per quella ragione molto semplice, perché oggi per rottamare un'auto italiana c'è un bonus di 700 euro e di 300 per lo scooter. E invece in termini di ecoesenzioni in Germania il bonus è di 2.500 euro, in Francia e in Portogallo di 1.000, perfino la Romania ci batte con 800 euro. Dove li troviamo tutti questi quattrini? Credo che l'obiezione di Tremonti sarà quella. Devo dire che però nel passato le rottamazioni e alcune manovre del primo Tremonti avevano quella clausola di salvaguardia che si chiamava l'autofinanziamento. Sostanzialmente se io compro un'auto e quindi finanzio l'acquisto, indirettamente poi con quell'auto pagherò imposte, comprerò benzina, anche se meno e più efficiente del passato, e soprattutto farò girare il mercato e quindi non so se se lo ricorda Ferrara, la famosa teoria per cui ridurre le imposte poi portava a una riduzione delle aliquote ma ad aumento del gettito, un po' le rottamazioni questo effetto. Sì, la curva di Laffer, sì. Sì, un po' la curva di Laffer. Ma le tecniche quali devono essere? Forse Mingardi ha un'opinione, visto che lui è contrario agli aiuti di Stato, però poi alla fine una scelta va fatta. Sono meglio le agevolazioni fiscali, per esempio la deducibilità dell'IVA, eccetera, o il sostegno al credito? E cioè, come a dire, ti vuoi comprare un'automobile, la vuoi cambiare, eccetera, eccetera, ti do un forte sostegno finanziario per poterlo fare. Visto dov'è l'epicentro della crisi, penso che sia meno peggio il sostegno al credito. Penso però che comunque dobbiamo andare al punto che sollevava Porro prima, cioè c'è una capacità produttiva in eccesso. Si fanno troppe automobili, c'è stata una domanda che era artificialmente alta proprio a causa del credito facile, questa domanda si va un po' a rattrappire inevitabilmente nei prossimi mesi se non nei prossimi anni. Stante questa situazione, possiamo davvero immaginare di produrre lo stesso numero di macchine e quindi di dare lavoro allo stesso numero di persone? È una domanda forse da cinico, ma è la domanda che ci si deve fare. Bene, Susanna da Milano. Susanna. Buongiorno. Buongiorno, volevo soltanto dire questo, mi sembra che potremmo definire un po' il mercato automobilistico un mercato di tipo sociale, non so se condividete questa affermazione, nel senso che ha risvolti che qui sono stati detti importanti per quella che è l'occupazione e l'impatto. Allora, consapevoli di questo fatto, io credo che spetti alla politica indirizzare eventualmente questo mercato, dandogli sostegno, ma chiedendogli in cambio un pacchetto di azioni, mettendo in piedi una strategia che vada nella direzione giusta. Quindi a patto che questo paese abbia un piano industriale, a patto che questo paese abbia un modello di sviluppo, quindi che parla anche di sostenibilità ambientale, di consumi, di vivibilità delle città, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che chiediamo alla politica non sono più annunci, chiediamo un piano, un progetto importante per sostenere un mercato importante. La Fiat è assolutamente un'azienda storica nel nostro paese, lo si è detto, quindi seduti sostenerla a tavolino, ma con una grande strategia di rilancio. Grazie, esatto, Susanna. Ci sono invece soluzioni più semplici, per esempio Fabio da Imperia. Fabio. Pronto, buongiorno. Lei ha una soluzione semplice. Un discorso molto di mercato, poi alla fine. Quando un prodotto non si vende, cosa si fa? Si scende il di prezzo. Perché non si fa un discorso di questo genere? Perché aiuti, via dicendo. Cioè, mi sembra proprio un assistenzialismo che poi porta Io penso che l'imprenditore che produce automobili. Fabio, io penso che l'imprenditore che produce automobili dirà: sì, io scendo di prezzo, ma se è antieconomico produrre, poi devo licenziare, devo ridurre il mio business perché non posso. Se io vendo gelati e non li vendo, abbassa di prezzo oppure cambio lavoro. Cioè, ho capito, certo, ma sì, ho capito, però insomma... assistenzialismo, che schifo, dai. Poi si va nel protezionismo, quello che diceva prima. Va bene, diciamo che lei ha un'opinione molto, molto forte e molto, molto, molto chiara. Sui prezzi cosa dice Porro? I prezzi delle auto purtroppo oggi... Non sono comprimibili. No, non sono comprimibili perché, voglio dire, Marchionne si trova l'obbligo a costruire 650.000 auto in Italia con ovviamente i costi del lavoro dell'Italia, non può chiudere le fabbriche, Marchionne più volte, ma neanche troppo segretamente, non soltanto in termini di confidenza agli amici giornalisti o analisti, ha detto se io potessi avere meno fabbriche in Italia potrei pagare molto, far pagare molto meno le nostre auto, tant'è che come diceva lei in Polonia si fanno 480.000 auto che è il doppio, quasi in un solo stabilimento. Sì, in un solo stabilimento che è il triplo di quanto se ne facciano a Torino ormai. Ecco, Marchionne è un po' un mistero perché è un personaggio che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere, è il grande manager italo-svizzero che si presenta anche davanti alle telecamere col golfino, è un uomo straordinario nei grandi negoziati, ha avuto i complimenti dell'Economist questa settimana perché riesce a fare dei grandi business soprattutto con gli americani, è riuscito a fargli pagare molto bene la rinuncia alla presenza nella Fiat, alla General Motors, insomma ci sa proprio fare, questa roba della Chrysler è considerata da tutti come una cosa molto osè, molto, molto spavalda, molto disinvolta, ma molto intelligente, insomma, no. Allora, l'idea di Marchionne è questa, ci vogliono, nel giro di 2-3 anni si arriverà a 5-6 gruppi mondiali e non si può produrre come singolo gruppo meno di 5.500.000 automobili. Quella è l'economia di scala per questo settore della vecchia grande industria manifatturiera dell'automobile. Per quanti progressi siano fatti nella competitività, per quanta nuova tecnologia, per quante innovazioni, bisogna produrre 5.500.000 automobili. Oggi la Fiat è a meno della metà di questo risultato, arriverebbe intorno ai 4 milioni se veramente andasse in porto un'alleanza vincente con Chrysler. Anche se sempre l'Economist dice, beh, attenzione però, non è mica detto, poi siccome i termini dell'alleanza sono questi, che la Fiat riuscirà a piazzare le Alfa Romeo e le 500 sul mercato americano, insomma non è detto che poi l'accordo funzioni, però il Memorandum of Understanding, cioè la fase preliminare dell'accordo c'è e tutti hanno molte speranze in questo accordo. Lei cosa pensa di Marchionne? Per esempio... Avrebbe fatto meglio 4 anni fa a chiudere gli stabilimenti improduttivi, a ristrutturare su base nazionale la Fiat, magari un po' col pugno di ferro, oppure questa sua ansia di discutere con i sindacati, di dare una prospettiva di ottimismo, di non creare conflitto e tensione sociale era giustificata? Guardi, Marchionne, da quel poco che mi sembra di aver capito, è un durissimo, ma che ha e vuole avere l'aria non del duro, almeno sul fronte sindacale. Se lui avesse potuto chiudere le fabbriche senza tensioni molto più costose 4 anni fa, alla fine le avrebbe chiuse. In Italia non si possono chiudere le fabbriche della Fiat, lui lo ha in una certa misura, lo sta facendo in maniera direi, come posso dire, più sottile, casse integrazioni, quindi pagate dai contribuenti, sistemi alternativi per mantenere comunque il lavoro in Italia, diciamo un po' a singhiozzo, in prospettiva anche non così forte. Questa bene, è la prima... bene, dopo l'informazione sulle strade, brevissima, torniamo in studio e vorrei approfondire questa questione, questa maledizione dell'industria dell'auto. Non si possono mai chiudere gli stabilimenti, non si può, cioè, ristrutturare perché divenga più produttiva e perché poi produca più profitti, più ricchezza sociale e dunque anche più posti di lavoro. 800 24 00 24, parliamo degli aiuti per l'automobile e della crisi dell'auto e anche della Fiat. Un'obiezione che un sapientone, un sociologo, un cattedratico, un accademico della politica definirebbe un'obiezione populista da latina. Teodoro. Pronto, buongiorno. Eccoci. Senta. Pronto? Spari, pronto? Spari. Ecco. Allora, spari. È assurdo continuare a finanziare la Fiat in continuazione con qualsiasi scusa, quando poi ci sono anche piccole industrie, piccole attività commerciali che non vengono aiutati. Non hanno accesso al credito, non hanno accesso a nessuno. La Fiat ha accesso a tutti o grossi gruppi industriali di altro settore. Allora, se l'economia deve essere fatta intorno a questi gruppi, riconsegniamo la partita IVA ai piccoli settori, i piccoli commercianti e tutto quanto. Perché non c'è aiuto, c'è aiuto soltanto per Fiat. L'aiuto ai grandi e invece il disinteresse per i piccoli. Porro. Porro, cosa pensa di questa obiezione? Che la Fiat, grazie, Teodoro. Il signor Marchionne deve pagare qualche anno di storia del passato, per cui questa obiezione era sacrosanta. Ed è obiettivamente la Fiat è considerata oggi, come le posso dire, il simbolo della grande Italia che socializza le perdite. Oggi, che è una Fiat completamente diversa rispetto a quella degli ultimi 50 anni, obiettivamente nell'italiano non si può togliere questa idea, soprattutto perché l'italiano e la partita IVA oggi soffre tantissimo e non ha nessuna forma di ammortizzatore sociale, cosa che invece ha la grande impresa. Quindi io capisco l'obiezione, voglio dire, penso che ci sia anche una storia per questa obiezione, ci sia proprio un risentimento nei confronti di questa grande azienda. Devo dire, io che sono assolutamente contrario agli aiuti, proprio ideologicamente, come Mingardi, forse oggi penso che sia il momento meno giusto per tirar fuori questa obiezione, di cui io comprendo perfettamente la genesi. Non so se sono stato chiaro, Ferrara. Posso dire una cosa? Possiamo fidarci delle previsioni apocalittiche? Perché per esempio Mingardi, in un suo articolo sul Riformista, ha detto una cosa così un po', come si dice, sulfurea, ecco, una cosa sulla quale dovremmo fermarci un momentino a pensare. E la cosa che ha detto è le grandi lobby pro corporation, le grandi lobby pro industria dell'auto a livello europeo, a livello mondiale, eccetera, serrano i ranghi in questo momento e terrorizzano l'opinione pubblica. Cioè, questo 2009 si sta rivelando, sulla base delle cifre, dei numeri che parlano dell'ultimo trimestre, dell'andamento dell'economia del 2008, quindi su base concreta, però magari una volta e mezzo, due volte più drammatico di quello che effettivamente potrebbe essere, perché questo spinge i governi a intervenire, a salvare, a impostare piani di aiuto. E questo è il mestiere del grande lobbying industriale e finanziario, che naturalmente ha una sua ripercussione anche sulla stampa, sulle televisioni, sugli organi, sui mass media. Che ne dice Porro di questa ipotesi Mingardi? Cioè che si sta un po' esagerando con le previsioni di crisi, magari per incamerare aiuti che si ritengono dovuti? Suggestiva, molto suggestiva, può esserci la tentazione di qualcuno. Io penso che la crisi sia esagerata, nettamente esagerata rispetto a quella che si rivelerà, ma non penso che ci sia questa spettre lobbistica che abbia questa capacità di influenzare tutto il mondo. Nel senso che condivido con lui che la crisi non sarà così grave come ce la prospettano, ma io penso che si è installato un circuito diverso rispetto a quella delle lobby che riescono a governare. Certo che poi ci sguazzano le lobby in questo momento nel rendere più difficile la situazione di quello che è, però mi sembra molto suggestiva, ma non risolve il problema, insomma, non ci si può basare. Secondo me no. E lei, Mingardi, cosa dice? Perché l'ha avanzata questa ipotesi del lobbismo che aggrava i dati della crisi per incamerare? Beh, io penso che la crisi sarà molto grave, però come un po' come quando si fanno le pulizie di primavera, insomma, per fare un esempio da economia domestica, cioè si tendono ad ammassare problemi e li si fa passare sotto l'etichetta di una crisi più grande di noi. Per cui le imprese che hanno avuto una gestione poco brillante negli anni scorsi hanno gioco facile ora ad addossarne la colpa a fattori esterni. Siccome sulla base di questi fattori esterni si è intervenuti a sostegno soprattutto del settore del credito, è chiaro che c'è una tendenza da parte di tutti a agganciarsi al carro. Insomma, oggi leggevamo sul Financial Times che adesso anche l'indotto, la componentistica dell'automobile negli Stati Uniti chiede aiuti. Del resto, li date alle tre grandi? Perché non a loro? Certo, abbiamo sentito Teodoro da Latina, ci sarà anche un Teodoro da Detroit. Laura da Roma. Buongiorno. Buongiorno Laura. Buongiorno, grazie. Volevo semplicemente farmi portavoce di un'esigenza che ormai dovrebbe essere generale, che ci sia che la ristrutturazione, insomma, della Fiat preveda anche una gestione ecologica di tale industria. E questo mi sembra un dato che debba essere fondamentale. Beh, quasi tutti gli incentivi sono stati fino adesso basati sul pregiudizio ecologico, mi faccia dire questo. Sì. Sì. Quindi è già successo, voglio dire. Spesso le rottamazioni sono finalizzate a un miglioramento dal punto di vista ecologico. Sì, ma io pure a livello di carburante, insomma, il discorso dovrebbe essere proprio di cambio ormai della tecnologia. E poi quello che credo, che ormai l'automobile dovrebbe ridursi anziché aumentare l'industria automobilistica. Lei è tra coloro che non hanno simpatia culturale, come diceva il professor De Aglio, per l'automobile. Ma come la sostituirebbe oggi su domani? Mi faccia un'ipotesi. No, oggi sul domani non la sostituirei, però farei dei piani di riduzione, incominciare a ridurla e aumentare altri mezzi di, ovviamente a seconda del tipo di zona dove uno abita, eccetera. Però le città dovrebbero incominciare a ridurre la possibilità di far entrare l'intasamento da automobili. Porro, la Chrysler tutti dicono è stata una grande mossa, una mossa diciamo di grande agilità mentale, di grande coraggio psicologico, però tutti dicono la Chrysler non basta, perché se anche andasse benissimo l'accordo tra la Fiat e la Chrysler, secondo il principio Marchionne, cioè dobbiamo ritrovarci in 6-7 grandi gruppi mondiali che producono almeno 5 milioni e 500 mila automobili l'anno, non saremo neanche a 4 milioni, se tutto andasse proprio alla meraviglia, ecco. Allora che fa la Fiat dopo? Pare che ci sia un'altra mossa e che questa sia considerata quella decisiva. Con chi si allea, secondo lei? Col gruppo indiano Tata? Con la tedesca BMW? Con la Peugeot? Con chi si può alleare la Fiat? E per quali ragioni? Sulla base di quali criteri industriali? Una prima risposta è che Marchionne ha una grandissima capacità tattica, come ha dimostrato nel caso Chrysler e non solo, quindi entra in campo quando è più forte, quando sa di poter comportare a casa il risultato con il minor sforzo possibile. In campo ci sono tre possibili soggetti, che sono l'espansione, quindi quello geografico, l'India, di cui parlava lei prima, Tata, con cui Marchionne c'è già un grandissimo rapporto, e poi le grandi due famiglie dell'auto in Europa, i tedeschi della BMW e i francesi della Peugeot. E quindi io questa risposta non gliela so ovviamente dare oggi, però secondo me neanche Marchionne ce l'ha oggi, così come si è comportato fino ad oggi. Lui sa che l'obiettivo è quello di arrivare sopra 5 milioni e mezzo e sa che tatticamente su uno di questi tre scacchieri, quando sarà per lui più forte, riuscirà a intervenire, già portandosi Chrysler a casa. Ovviamente un accordo con i francesi di Peugeot viene fatto più da pari rispetto a quanto sia Fiat oggi con i suoi 2 milioni e mezzo di auto. In un domani una Fiat con Chrysler, alleanza funzionante, ovviamente sarebbe un'alleanza con Peugeot, meno tra pari e con più forza per Fiat. Però stiamo parlando veramente di un futuro molto incerto. Di un futuro molto, molto incerto. Bene, Mingardi, un suo parere sulla settimana corta? Perché è una cosa che viene dalla cultura anglosassone, cioè da un sistema che la libertà economica sa cos'è. Loro dicono 3 giorni a lavorare e 4 giorni a casa. Dunque, innanzitutto la cultura anglosassone è anche molto più agile della nostra, nel senso che sono storicamente capaci di mettere in piedi anche programmi di intervento molto ambizioso e poi anche di smantellarli quando non ve ne sia più l'esigenza. Sul piano della settimana corta di per sé, una proposta che era stata avanzata anche in Italia alcune settimane fa, secondo me dipende molto da qual è la scala su cui si decide di realizzarla. Cioè, se si mette a disposizione delle imprese e dei lavoratori la possibilità di accordarsi in un certo modo, su base volontaria, magari compensando le ore di lavoro perse con ore di formazione che vadano a rendere il lavoratore più occupabile anche in altri settori, può essere uno strumento da mettere sul piatto. Il rischio invece è quello di introdurre per legge un'altra limitazione della libertà contrattuale. Bene, mentre parlavamo la Fiat ha invertito la rotta ed è salita in borsa, il che naturalmente ci fa piacere. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, Guido Scotti, Guido Scotti, in regia Alessandro Chiappini, e dobbiamo adesso lasciare lo studio perché va in onda il grande Gianluca Nicoletti. Vi ringraziamo molto, vedremo poi mercoledì cosa farà il governo, che decisioni prenderà sugli aiuti alla Fiat, ne riparleremo. Grazie, a domani.